Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani. Questa mattina vi dovrete accontentare di me in solitaria, la conduzione appunto del nostro programma dedicato alle questioni finanziarie delle famiglie, ma anche alle questioni appunto del loro benessere, della loro salute. Nicoletta non c'è, torna naturalmente domani, ma mi ha lasciato degli ottimi argomenti da affrontare con voi. Ne abbiamo alcuni molto interessanti, parleremo di sonno, parleremo del nostro consumo di caffè e poi in apertura parleremo di una nave speciale che sta partendo proprio in questi minuti da Genova. Per quello che riguarda le questioni economiche, attenzione, anche se il clima è mite in gran parte d'Italia, in realtà da metà mese sarà già possibile cominciare ad accendere gli impianti di riscaldamento. E allora, due le questioni che vi proponiamo questa mattina. Avete già fatto il controllo annuale, la manutenzione annuale della vostra caldaia? Prima cosa. Seconda cosa, abitate in un condominio dove il riscaldamento è centralizzato? Lo sapete che entro la fine dell'anno avete questo obbligo di legge di installare nelle vostre case i cosiddetti contatori, sottocontatori, contabilizzatori. E allora, tante le novità di cui parlare questa mattina, tante le novità sulle quali potete anche intervenire in diretta ed interagire con me all'800 24 00 24 oppure al 349 238 6666. Siamo pronti stamattina per partire. Che salpino le navi, si levino le ancore, si gonfino le vele, verranno giorni limpidi e dobbiamo approfittare. E noi non siamo i soli a partire oggi, perché come vi anticipavo proprio pochi istanti fa, tra poco parte da Genova una nave molto speciale, Nave Italia, il brigantino a vela più grande del mondo, che ospita a bordo 12 siblings, fratelli e sorelle sani di pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. In linea con noi questa mattina il dottor Carlo Dionisi Vici, responsabile di patologie metaboliche all'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottore, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, buongiorno. Esattamente dove si trova in questo momento? Adesso ci faccia questo reportage. Aurelio, stiamo andando verso tutto, verso Genova, dove contiamo di imbarcarci nel primissimo pomeriggio. Pronti a salpare nel primissimo pomeriggio. Allora, dottor Dionisi Vici, partiamo proprio dal termine inglese con il quale in questo caso indichiamo i fratelli e le sorelle sane di persone con disabilità. Abbiamo detto appunto i siblings. Convivere con un fratello o una sorella con malattie croniche e complesse invalidanti può avere ripercussioni anche sulla qualità di vita del ragazzo sano. Ci si può sentire trascurati, viceversa troppo responsabilizzati, no? Nell'aiutare la famiglia a gestire il problema, o ancora in dovere di eccellere a scuola o nello sport. Anche alla luce di tutta questa, di questa consapevolezza che probabilmente anche il mondo medico ha, come nasce appunto questa iniziativa della quale siete protagonisti questa mattina? Beh, la Fondazione Nave Italia ha proprio nella sua mission quello di cercare di venire incontro a quelli che sono i disagi sociali, i problemi di inserimento e di disabilità. Quindi abbiamo scelto quest'anno, dopo un percorso lungo di variate esperienze, di dedicare la nostra attenzione al problema dei fratelli. Noi come pediatri ci occupiamo di malattie croniche complesse, quindi sono tutte problematiche che nel bilancio di una famiglia pesano non solo sui genitori ma anche sui fratelli. E questo termine sibling, nato in Inghilterra, è proprio un termine che oggi è scientificamente validato, proprio perché esiste una letteratura scientifica dedicata a questo. Lo scopo è proprio quello del nostro viaggio, è uno scopo esplorativo, vogliamo dire. Noi non abbiamo ancora un'esperienza maturata direttamente, ma vogliamo, con questo progetto che porta un gruppo di pochi ragazzi, una decina di ragazzi, capire quali possono essere le problematiche sulle quali intervenire in futuro. Il Bambino Gesù è un grande ospedale pediatrico che si occupa di tanti problemi collegati alla cronicità, dalla oncologia alla genetica, alla malattia rara, alla neurologia, e vogliamo in questo modo venire incontro a quelle che sono delle esigenze di empowerment della famiglia. Dottor Dionisi Vici, mi colpiva molto quello che lei diceva poco fa, raccontandoci che lo scopo dell'esperienza è proprio quello di ristabilire all'interno della famiglia del bambino malato un giusto equilibrio che tenga in considerazione anche la complessità e i bisogni del fratello o dei fratelli o della sorella o delle sorelle appunto sane. Mi colpiva molto il fatto che forse ancora una letteratura scientifica ampia che si fosse occupata fino a questo momento di questo tema appunto non ci fosse, e quindi voi per primi o tra i primi appunto partite anche con questa iniziativa. È bene che si parta, naturalmente. Noi difatti vogliamo applicare un metodo scientifico alla nostra esperienza, quindi ci siamo fatti, ci hanno fornito dagli Stati Uniti dei questionari che vogliamo validare, sono questionari utilizzati in ambito neuropsicologico e li stiamo testando nei ragazzi, quindi la nostra intenzione è quella di verificare in una maniera scientificamente validabile tutto quello che è il percorso dei ragazzi. Li abbiamo iniziati a conoscere, noi conosciamo i loro fratelli, non conoscevamo i fratelli sani, li abbiamo cominciati a conoscere durante un primo incontro avuto a Roma in ospedale, li conosceremo durante l'imbarco. La stiamo perdendo, adesso vediamo, mi sente, dottor Dionisi Vici? Sì, eccoci qua, siamo per strada. Ecco, lo so infatti. E vogliamo quindi conoscere questi ragazzi nel tempo e capire quanto il nostro intervento possa migliorare la loro qualità. Chiarissimo. Allora, a bordo di Nave Italia, lei ce lo diceva, c'è una decina di ragazzi, circa 12, di età compresa fra i 9 e i 17 anni. Faranno tante cose, ma insieme a loro intanto da quali altre persone è composto l'equipaggio? Perché ci sarà lei, dottore, e poi chi altri? Non lo abbiamo più, naturalmente adesso proveremo a recuperarlo, ma cercando di raggiungere appunto Genova da Roma possiamo immaginare la qualità, come al solito, del collegamento telefonico che si può stabilire appunto quando si viaggia. Adesso vediamo se Leonardo Sirigato riesce a recuperare il collegamento telefonico con il dottor Dionisi Vici, altrimenti direi che tra poco possiamo anche andare avanti con l'altro argomento. Ce l'abbiamo, Leonardo? Non ancora? Allora proviamo a vedere se intanto il traffico, naturalmente un po' presto per poterlo fare, vi anticipo già i temi dei quali parleremo tra poco nel proseguimento della nostra rassegna stampa di Cuore. Parleremo di un tema che vi piace moltissimo, che è il consumo di caffè. Lo si continua a promuovere su vari fronti. Adesso c'è anche una ricerca che ci spiega come un consumo appunto di un tot di tazzine di caffè al giorno possa addirittura combattere la demenza. E questo è uno studio molto interessante appunto che lo racconta. Noi lo commenteremo con la dottoressa Alessandra Tavani, capo del laboratorio di epidemiologia delle malattie croniche dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Intanto vediamo sul collegamento telefonico che se siamo pronti, ci proviamo. Non ce la facciamo con Dionisi Vici. Comunque vi abbiamo raccontato lo spirito appunto dell'iniziativa che vede oggi Genova come protagonista. Parte la nave Italia, il brigantino a vela più grande del mondo, che ospita questi 12 ragazzi, fratelli e sorelle sane di pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Direi che ci possiamo fermare, abbiamo già la nostra prima pausa, il traffico, poi gli altri due argomenti di questa mattina. Strade in diretta. Ben trovati, in apertura vi segnalo circa 9 km di coda per incidente sull'auto Brennero tra Nogarole Rocca e l'innesto con la 4 verso il confine di Stato. Code per incidente sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze in direzione opposta tra Sesto Fiorentino e Prato Est. Ripercussioni sull'Autosole con code tra Calenzano e la 11 verso Napoli in direzione opposta tra Firenze-Scandicci e Calenzano. 4 km di coda sulla Pontina per incidente tra Casalazzara e Aprilia, verso Latina. Per finire, per il traffico intenso, vi segnalo code sulla tangenziale est di Roma, in prossimità della Salaria verso l'Olimpico e tra la Tiburtina e la Casilina, verso San Giovanni. Queste le notizie di maggior rilievo, tutte le informazioni sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Più tardi. Cuore e denari. 7000 caffè li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te. Allora, 7000 ci sembrano un po' tanto, ma se una mela al giorno toglie il medico di torno, 3 caffè al giorno sembrano invece in grado di togliere addirittura la demenza di torno, e quanto suggerisce uno studio pubblicato dalla rivista The Journals of Gerontology, che noi commentiamo oggi, come vi anticipavo poco fa, con la dottoressa Alessandra Tavani, capo del laboratorio di epidemiologia delle malattie croniche dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lei quanti ne ha già presi stamattina? Ma per il momento solo uno. Ma dipende, poi anch'io ne ho preso solo uno nella tazza, ma ne ho messo un bel po', però chissà quante tazzine corrispondono. E vabbè, io ho bisogno di una bella carburazione la mattina, dottoressa, forse come un po' tutti. Allora, è una buona notizia per gli amanti del caffè e appunto io e Nicoletta lo siamo, ne ridiamo molto spesso anche dai microfoni di Cuore e Denari. E come tutte le cose piacevoli, anche la tazzulella è sempre stata molto chiacchierata. Per anni si è cercato di metterla un po' in difficoltà appellandosi ai rischi, alle controindicazioni appunto di un consumo eccessivo. Invece dalle ricerche sono davvero tante, la famosa tazzina è sempre uscita a testa alta e può vantare tanti meriti e molti di questi sono salutari. Ci sono le prove, il caffè è buono, non solo non fa male, ma in alcuni casi può fare addirittura bene. E lo studio di cui parliamo oggi ne è un esempio, perché, dottoressa Tavani, i ricercatori hanno calcolato che chi consuma 3 tazzine di espresso o 2 di moca, l'equivalente per l'esattezza di 261 mg di caffeina al giorno, presenta un rischio di ammalarsi di demenza o di deficit cognitivo ridotto di quanto? Di circa il 30%. Comunque, quello che mi chiedete di commentare è sicuramente uno studio importante, pubblicato su una rivista relativamente prestigiosa, quindi le conclusioni alle quali arriva sono sembrano attendibili. Comunque non è il primo lavoro che mostra una relazione inversa tra caffè e demenza, tra cui anche l'Alzheimer, che è quella più famosa. Ce ne sono almeno un'altra quindicina e tutti nel complesso mostrano un effetto protettivo del caffè. Però stiamo attenti. Prima di tutto preferisco parlare di caffè piuttosto che di caffeina, perché il modo con cui si calcola la caffeina negli studi epidemiologici è sempre un po' sotto, con errore, diciamo così. Però bisogna fare attenzione anche a queste protezioni che osserviamo, perché c'è una differenza tra osservare una relazione inversa e stabilire una causalità. Cioè dire che il caffè è veramente il responsabile della diminuzione di incidenza di demenze che troviamo. Cioè, bisogna essere un pochino più prudenti di quello che di solito fanno i media. Dottoressa Tavani, quando si parla di caffè si pensa subito, lei ce lo diceva poco fa, appunto alla caffeina, però c'è anche dell'altro, perché con un sorso di caffè introduciamo molte altre sostanze di cui oggi si conoscono gli effetti a volte sorprendenti, in particolar modo il focus che viene frequentemente fatto è su quella sorta di protezione nei confronti di alcuni tipi di tumore, no? In quali casi? Quando si beve il caffè contiene un sacco di sostanze, tra cui tantissime cosiddette bioattive, cioè che hanno un effetto sul nostro organismo. E tra queste ci sono molti antiossidanti che appunto potrebbero in parte antagonizzare quelli che si chiamano i processi ossidativi che avvengono nel nostro organismo e che stanno alla base dell'aterosclerosi e dei processi infiammatori che a loro volta stanno alla base dell'infarto del miocardico, quindi del cuore, dell'ictus e dei tumori che sono le malattie che più ci fanno paura. Però il fatto che il caffè possa realmente agire in questo modo sono ancora delle ipotesi di lavoro, più o meno provate, ma sono più o meno ancora, certo, soprattutto a livello di ipotesi di lavoro. Quindi se dovessimo fare un elenco, dottoressa, la interrompo, ma per capire, degli effetti certi, benefici, che in termini salutari il caffè ha, appunto, quali sono le certezze che quantomeno abbiamo, mentre molto è ancora oggetto di studio e ricerca? Sì, no, direi che per esempio per i tumori c'è stata una riunione di una decina di epidemiologi all'Agenzia Internazionale Ricerca sul cancro di Lione, che è un'agenzia patrocinata dall'OMS, che ha valutato che tutti gli studi pubblicati sulla relazione tra caffè e tumori. Siccome anch'io ho fatto parte di questo gruppo di lavoro, posso dirvi con certezza che quello che abbiamo concluso è che il caffè non aumenta il rischio di nessun tumore, anzi può addirittura diminuire il rischio del tumore del fegato, dell'utero e forse della bocca e della gola, cioè il cavorale e faringe. Quindi il caffè, dal punto di vista dei tumori, si può berlo tranquillamente. Ovviamente la domanda sul caffè decaffeinato da parte di un ascoltatore è già arrivata, dottoressa. Ecco, se beneficio deriva dalla caffeina, è chiaro che qua... No, il beneficio non sembra derivare dalla caffeina, ma dalle altre sostanze che ci sono nel caffè. E quindi il caffè decaffeinato, sebbene gli studi siano molto meno numerosi e quindi basati su molti meno soggetti, però il caffè decaffeinato sembra avere gli stessi effetti del caffè. Certo. Quindi non essere assolutamente tossico, diciamo così, non aumentare il rischio di nessun tumore. E sul nostro cuore, a chi attribuisce una partenza di fibrillazione dovuta al consumo di caffè, magari in certi momenti un po' esagerato perché si è sotto stress, esiste questa relazione diretta? È dannoso per il caffè? No, non è possibile dirlo. Il caffè non aumenta il rischio né di infarto né di ictus né di fibrillazione atriale. Certo, chi ha la fibrillazione atriale magari ne beve un po' meno, però chi già ce l'ha non aumenta il rischio di averlo, e anzi è stato visto anche che il caffè non aumenta il rischio di reinfarto a chi l'infarto l'ha già avuto. Il caffè sembra addirittura che diminuisca la mortalità totale, anche se di nuovo qui parliamo sempre di relazioni inverse più che di causalità. Tanto per fare un esempio, può essere che io sono più sano, bevo più caffè, visto che un tempo il caffè veniva considerato dannoso, e quindi vivo di più. Allora è facile attribuire che si vive di più perché si beve più caffè. Capito quali sono il tipo di errori che si possono, che possono essere impliciti in questo tipo di studi? Apposta cerco di distinguere tra, certo, causalità del caffè e relazione inversa tra malattie e caffè. Però ecco, il caffè sicuramente non fa male. Certo. Allora, per concludere questa nostra conversazione, dottoressa Tavani, qual è il messaggio che dobbiamo assolutamente far passare ai nostri ascoltatori? Il messaggio è che ci sono alcune condizioni in cui il caffè può far male. Per esempio, quando una donna è incinta è bene che si astenga dal caffè, perché la caffeina passa, viene metabolizzata molto più lentamente, passa facilmente. Quindi lei suggerisce un'astensione radicale? Un'astensione al massimo una tazza al giorno, lo stesso durante l'allattamento nelle donne incinte. Altrimenti ci sono condizioni, non so, la cirrosi epatica, in cui va diminuito il caffè proprio perché si possono risentire gli effetti della caffeina. Poi ci sono delle persone che sentono di più l'effetto della caffeina di altre perché la metabolizzano più lentamente, è proprio una caratteristica genetica che causa questo. Altrimenti, comunque, nella gente, nella popolazione generale che sta bene e che non è in condizioni fisiologiche particolari, si può dire che il caffè non fa sicuramente male. Certo. Da qui a dire prendete il caffè come azione preventiva per prevenirvi i tumori, prevenirvi la mortalità, la demenza, eccetera, ce ne corre. Certo. Però è che è una bella notizia. Una volta tanto noi epidemiologi possiamo darvi una bella, benissimo, notizia. Un caffè non fa male. Esatto. Dottoressa Tavani, prima di salutarla, mi dia un assist che mi consente di salutare il prossimo ospite. Io sono cresciuta in una famiglia di grandi consumatori di caffè, e però insomma mia mamma mi ha sempre detto: se lo prendo dopo le 4 del pomeriggio è proprio quello che non mi fa dormire. Si vede che la sua mamma era una lenta metabolizzatrice, anche, ecco, a me fa questo stesso effetto. Quindi è possibile. Questa è proprio una caratteristica genetica: chi metabolizza il caffè più lentamente risente più fortemente degli effetti della caffeina. Quindi, per esempio, il più eclatante è l'insonnia. Quindi dipende dalla qualità del metabolismo. Ecco, sì, perfetto. Dipende dal proprio metabolismo personale. Chiarissimo. Dottoressa Tavani, grazie molte per essere grazie stata. Quando viene qua glielo offro uno volentieri, naturalmente, prima delle 4 possibilmente. E a proposito della qualità del nostro sonno, chi potevamo chiamare se non il nostro esperto, il professor Luigi Ferini Strambi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Lei a caffè stamattina come sta? Io bene, perché siccome stamattina avevo una conference call molto presto al telefono, quindi mi sono svegliato presto, quindi ne ho già presi 3 di caffè. Benissimo, quindi. Più o meno come me, professor Luigi Strambi, sto benissimo, direi che anzi non vedo l'ora di pranzare per prendere anche quello successivo. Però noi parliamo di sonno con lei, parliamo di riposo, perché secondo una recente ricerca condotta da esperti della Durham University, 2/3 del mondo riposano male e poco, numeri molto preoccupanti. Noi ne parliamo spesso con Nicoletta di questo argomento, di quanto una cattiva qualità del riposo notturno appunto incida su tanti ambiti della vita appunto delle persone. Sono numeri preoccupanti quelli che vengono indicati da questa ricerca, ma professor Ferini Strambi, appunto, che cosa può servire per migliorare la qualità del sonno, a parte il fatto che naturalmente nelle condizioni molto critiche si deve andare da professionisti come lei, ma ci può commentare appunto questo studio, rappresentato una sorpresa presa per voi esperti del tema o no? No, questo per noi non è una sorpresa. Il problema fondamentale è che molti di quelli che hanno poi problemi di sonno non lo dichiarano, a meno che non vengano appunto intervistati o diciamo così sottoposti a dei questionari specifici. Il problema è molto grande, perché purtroppo sappiamo benissimo, lo ricordava prima lei, quelle che possono essere le conseguenze del cattivo sonno. Al di là del fatto appunto di situazioni particolari, il soggetto, diciamo così, normale o quasi normale, che comunque vuole cercare di dormire meglio, deve rispettare un po' quelle che sono le regole fondamentali. Abbiamo citato prima il caffè, ma non è soltanto chiaramente il caffè. Una cosa fondamentale che dobbiamo sempre ricordare è che quando vogliamo addormentarci non possiamo farlo in maniera così automatica. cioè quindi bisogna guadagnarsi un po' questo scivolamento verso il sonno e per far questo dobbiamo magari già mezz'ora, un'ora prima del momento in cui andiamo a letto cercare proprio di spegnere i nostri centri della veglia, perché il trucco è tutto lì, bisogna cercare di spegnere i centri della veglia per far sì che quelli del sonno possano finalmente attivarsi e funzionare molto bene. Ecco, quindi la TV accesa in camera, lo ridiciamo ancora una volta, professore, sarebbe meglio non averla. Ma non, sicuramente, ma non è soltanto il problema della TV accesa in camera, questo è uno degli aspetti, bisogna cercare di evitare di fare tutte quelle cose che mi tengono molto allertato, no? Cioè quindi evitare le discussioni, evitare di leggere anche libri con un particolare impatto diciamo su quelle che sono le mie emozioni, cercare proprio di veramente cominciare un pochino ad attenuare tutte quelle che sono le proprie funzioni cognitive, quindi cercare proprio piano piano di spegnere la mia attenzione. Sarebbe bene anche, da quello che so, professore, non aver fatto attività fisica fino a poco prima appunto di coricarsi, perché l'adrenalina in circolo è ai massimi livelli. Ecco. O il fatto ad esempio di evitare di mangiarsi ad esempio una bistecca e bersi due bicchieri di vino rosso, perché questo perché sostanzialmente quando io cerco di spegnere i miei centri della veglia devo anche in una qualche maniera ridurre quella che è l'attività del famoso sistema simpatico, quello che mi fa avere ad esempio la frequenza cardiaca elevata, la tachicardia. Se io cerco invece di mangiare cibi che non mi tengono molto attivato il cuore, questo è meglio, va meglio, perché proprio perché in questo processo di preparazione al sonno devo cercare di far prevalere il sistema, quello che si chiama sistema vagale, quello che fa abbassare appunto la frequenza cardiaca, che fa abbassare la frequenza respiratoria. Cioè quindi non è soltanto un problema di mente, non è soltanto un problema di attivazione della mente, è un problema anche di attivazione di quello che è il completo organismo, tutte quelle che sono le varie parti del mio organismo. E quindi dovendo ottenere questo risultato devo cercare anche di favorire quei cibi che in una qualche maniera non mi creano una tachicardia e quindi un'attivazione del cuore. Quel classico bicchiere di latte caldo con il miele, per chi fa fatica ad addormentarsi, voi esperti lo suggerite, lo indicate oppure lo sconsigliate? È comunque sempre del cibo che si aggiunge magari ad una dieta della giornata che è stata già ricca e sufficiente? È un carico certo, di calorie inutile? No, molte volte queste cose servono soprattutto per creare quello che noi chiamiamo condizionamento favorevole, cioè il soggetto che bevendo una tazza di latte caldo comunque prova una sorta di rilassamento, quindi riesce a mettersi in una condizione di rilassamento e in questo senso sicuramente va favorita questa cosa, proprio perché contribuisce proprio a creare questa sorta di rallentamento delle varie attività che facilita appunto l'ingresso verso il sonno. Professor Ferini Strambi, allora il numero delle persone che ha una cattiva qualità del sonno dalle ricerche continua a crescere, ma lei diceva prima molte persone non denunciano al medico questa situazione perché probabilmente molte persone non ne hanno la consapevolezza, e l'ho fatto tante volte questi esempi, sono una che si sveglia molto di frequente di notte, ma devo dirle che durante la giornata non ne sento assolutamente l'influenza, credo comunque che quel poco che dormo mi è più che sufficiente. In ogni caso, in quali casi proprio voi suggerite di fare particolare attenzione ad una cattiva qualità del riposo e a recarsi assolutamente da un medico specialista? Quello che citava lei ad esempio è una cosa molto importante, cioè ci sono dei soggetti che possono dormire magari non 7-8 ore, ma dormono magari anche 5 ore, 6 ore e che comunque non hanno, magari pur svegliandosi una, due volte per notte, non hanno delle conseguenze particolari durante il giorno, quindi funzionano molto bene di giorno. È chiaro che in questo caso non è che uno deve necessariamente precipitarsi appunto dal medico, perché il problema è che buon funzionamento notturno deve collegarsi a un buon funzionamento durante la giornata, quindi sicuramente se un soggetto comincia a dire ecco mi viene sonnolenza di giorno, mi sento molto stanco, vedo che di giorno le cose non girano bene dal punto di vista soltanto di quelle che sono le attività mie lavorative. Sono dei segnali chiari che devono allertarci. E allora in quel caso lì bisogna allertarsi e bisogna consultare il medico. Grazie professor Ferini Strambi, buona giornata naturalmente. Grazie a voi, buona giornata a voi. Noi ci fermiamo, adesso c'è il giornale radio, ma torniamo subito dopo con i problemi delle nostre caldaie. Sono le 11. GR24, il sole 24 ore. Visita a sorpresa del Papa ad Amatrice, non sono venuto prima per non creare problemi, dice Francesco. Oggi 1000 migranti sbarcheranno in Sicilia, ieri oltre 6000 salvati dalle navi europee. Operazione antimafia vicino a Palermo, 16 le persone arrestate. L'uragano Matthew ha colpito Haiti e si dirige ora verso Cuba. Buongiorno dalla redazione, da Adriana Fracchia. Papa Francesco è arrivato stamani ad Amatrice, la città simbolo del terremoto del 24 agosto scorso, per una visita sorpresa in forma strettamente privata. Il Papa è entrato nella zona rossa accompagnato dai vigili del fuoco e ha detto di non essere venuto prima per non creare problemi. Francesco ha pregato per le vittime del terremoto in silenzio davanti alle macerie. Già oggi almeno 1000 migranti arriveranno in Sicilia. Si tratta dei primi 6000 salvati ieri nelle acque del canale, oltre 6000 salvati nelle acque del canale di Sicilia e circa 6000 le persone recuperate dalle navi europee. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri di Monreale stanno eseguendo un'operazione antimafia sul mandamento di San Giuseppe Jato in provincia di Palermo. Circa 100 militari con l'ausilio di unità cinofile ed elicotteri hanno arrestato 16 persone. E ora parliamo della corsa per la Casa Bianca. Si apre nel peggiore dei modi per Donald Trump la settimana che fa scattare il conto alla rovescia verso le elezioni presidenziali. Mentre i candidati alla vicepresidenza Kane e Pence si scaldano in vista del loro primo e unico dibattito di questa notte in Virginia, il magnate repubblicano ha visto abbattersi su di sé una serie di scandali che hanno portato alla luce un passato tutt'altro che limpido. Ultima in ordine temporale l'inchiesta del Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, che ha rivelato come Trump abbia affittato per 5 anni a cavallo del millennio un ufficio a New York alla banca Melli, controllata dal governo iraniano, banca che facilitava la fornitura di materiale al programma nucleare di Teheran e inviava denaro a un'unità della Guardia Rivoluzionaria, un'attività, quella di locatore, che mal si concilia col Trump di oggi, che lancia invettive continue contro il nemico iraniano. Obama intanto non si fa scappare l'occasione dell'altra inchiesta che ha azzoppato il magnate nel weekend, quella sui presunti 18 anni di mancato pagamento delle tasse grazie al miliardo di dollari di perdite dichiarate nel 95. Queste rivelazioni mettono in evidenza la necessità di una riforma fiscale che sia più giusta, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca. Per Trump piove sul bagnato. Il procuratore generale di New York ha infatti ordinato alla Trump Foundation lo stop immediato dell'attività di raccolta fondi nello stato della Grande Mela. Motivo? L'organizzazione non aveva semplicemente i permessi per farlo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Almeno una persona è morta a causa del passaggio dell'uragano Matthew su Haiti, dove molti abitanti si sono rifiutati di lasciare le proprie case per ripararsi nei rifugi. Nelle prossime ore l'uragano raggiungerà Cuba. Potrebbe essere la prima persona al mondo ad essere guarita dal virus HIV, ma il risultato definitivo si potrà avere soltanto fra qualche anno. Si tratta di un uomo di 44 anni, inglese, che ha completato la sperimentazione di un nuovo protocollo britannico. Sentiamo l'immunologo Fernando Aiuti, intervistato da Enza Loddo. Per la prima volta si unisce alla terapia antiretrovirale un farmaco che è in grado di stimolare il sistema immunitario e quindi le cellule dove il virus è addormentato, e quindi paradossalmente il virus si replica, quindi potrebbe essere peggio per il paziente, però viene ucciso dalla terapia antiretrovirale, e quindi un sistema per sanare il virus dalla sua tana, dalle cellule dove sta addormentato per molti anni in corso di terapia antiretrovirale. Quanti sono i pazienti che dovrebbero guarire e quanto tempo dovrebbe essere passato finché si possa dire che l'esperimento è riuscito? E si tratta ancora solo di un paziente su oltre 40 che sono previsti nel protocollo, ed è anche quindi prematuro perché non si conosce bene i tempi, da quanto tempo questo paziente è in grado di così aver eliminato il virus. E ora il calcio con le strade della nazionale di Mario Balotelli, che potrebbero presto tornare ad incrociarsi. In linea d'aria ci sono appena una novantina di chilometri tra Coverciano, sede del Ritiro Azzurro, e Maranello. Ma mai come in queste ore la Nazionale e Mario Balotelli sembrano ritornati ancora più vicini. Per ora il CT Ventura e Super Mario si parlano a distanza. Il CT da Coverciano, appunto, mentre già pensa alla doppia sfida con Spagna e Macedonia, già decisiva per i mondiali di Russia 2018. Sul qualità del giocatore credo che non si possa discutere, si discute su tutto il resto, non c'è preclusione nei confronti di nessuno. Mario parla invece da Maranello a Sky Sport a margine di una visita alla Ferrari e rilancia il suo sogno azzurro. Secondo me è meglio che mi convochi la prossima volta. Invece che questa, perché voglio essere davvero al top. Bomber rinato nel Nizza, sorpresa capolista in Francia, Balotelli incassa un'altra buona notizia. Espulso ingiustamente domenica durante la gara con il Lorient, vinta con un suo gol, non sarà squalificato, visto che l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato. Davvero il mondo intorno a Super Mario sembra cambiato, sperando sia cambiato anche lui. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere vi ricordo che sta andando in onda a Cuore Denari, allora do la linea a Deborah Rosciani. Buongiorno, allora abbiamo visto fino a poco fa pregi e difetti del caffè, abbiamo fatto un ragionamento sulla qualità del nostro sonno, adesso invece riapriamo il dibattito sulle questioni finanziarie che molto spesso il sonno lo fanno perdere ai nostri amici che ci seguono da casa. Parleremo intanto degli impianti di riscaldamento pronti a ripartire soprattutto nel nord Italia, ma abbiamo pensato allo stato di salute del nostro impianto di riscaldamento. Abbiamo fatto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria dell'anno e per chi ha il riscaldamento centralizzato e vive in condominio, attenzione perché ci sono delle novità importanti in arrivo e quindi vi aspettiamo a tra poco. Grazie a Deborah Rosciani, a fra poco con Cuore Denari. È tutto per questo notiziario, un saluto da Adriana Fracchia, GR24 torna a mezzogiorno. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Ed eccoci ritrovati in diretta. Allora, qua a Milano, almeno per qualche giorno, sembra essere, come dire, dal punto di vista meteorologico, una situazione mite, però è tempo di accendere gli impianti di riscaldamento, quantomeno c'è questa data, quella del 15 ottobre, a partire dalla quale in quasi tutta l'Italia del centro-nord sarà possibile avviare appunto gli impianti di riscaldamento centralizzati. Poi quelli che hanno l'impianto autonomo fanno quello che vogliono. E allora è anche per Cuore Denari è tempo di occuparsi dell'argomento, lo sapete, per noi in questo periodo dell'anno è un grande classico. Due i temi che vi proponiamo questa mattina. Intanto, avete fatto il famoso controllo fumi e controllo di sicurezza della vostra caldaia? Uno. E due, abitate in condominio, state discutendo dell'installazione di termovalvole e contabilizzatori per ripartire le spese più equamente? Allora, sappiamo bene quali dibattiti ci sono nella vita di condominio, soprattutto quando in questi vi è l'impianto di riscaldamento centralizzato, perché per qualcuno è troppo caldo, ci si vuole distaccare, ma prima del distacco c'è la possibilità di eseguire un calcolo del consumo della singola abitazione. E insomma, tante le tematiche. Sappiate che entro il 31 dicembre, noi ve lo avevamo spiegato anche lo scorso anno, entro il 31 dicembre di quest'anno dovranno essere installati questi dispositivi per contenere i consumi e per garantire una migliore efficienza energetica. Contabilizzatori, sottocontatori richiamano in ogni modo il tema che l'assemblea di condominio deve aver già deliberato su tutto questo. Come stanno messi i condomini d'Italia? Sono tutti a posto con questa normativa? E poi per i singoli abitanti delle varie unità abitative, sono altre spese in arrivo? Si tratta di buone notizie per i consumatori? Insomma, tanta carne al fuoco questa mattina, fuoco proprio il caso di dirlo. 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire, siete già in tanti, pronti con le vostre domande che noi gireremo ai nostri esperti, a Federico Musazzi, segretario di Assotermica, che saluto. Buongiorno, è venuto a trovarci qui negli studi di Radio 24 di Milano. Buongiorno, grazie dell'invito. Assotermica è l'associazione dei produttori di apparecchi e componenti per impianti termici. Guardi come, esatto, ho studiato stamattina, bravissima. Sono bravissima. E poi ci collegheremo con l'avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi della NACI Lombardia, per tutti gli adempimenti anche a carico degli amministratori di condominio per mettere a norma gli impianti di riscaldamento appunto nei condomini. Allora, cominciamo con lei, Musazzi, partiamo subito con il tema dello stato di salute del nostro impianto di riscaldamento, della sua efficienza energetica, delle sue condizioni di sicurezza in primo luogo, no? Naturalmente tutti questi compiti che abbiamo come famiglie, però insomma anche fare tutti questi lavori ci impone di sostenere dei costi, e come ogni anno molte famiglie mettono mano appunto al portafoglio per chiamare un tecnico che si occupi dei controlli di rito, e come ogni anno si riapre il dibattito: ma ogni quanto tempo deve essere fatto il check-up della caldaia? Un anno, due anni, quattro anni e quant'altro? Noi l'avevamo invitata anche lo scorso anno, sempre sullo stesso argomento, e mi ricordo che l'anno scorso ci aveva ben spiegato un'altra novità, che era proprio nel pieno di quel periodo: l'addio alle vecchie caldaie, perché erano entrati in vigore gli obblighi dell'Unione Europea per i produttori di energia, a partire dal divieto di fabbricare apparecchi non a condensazione. Guardi quanti argomenti abbiamo stamattina. Intanto il bilancio ad un anno di quell'operazione qual è? Ma direi un bilancio positivo. L'anno scorso appunto avevamo parlato di due nuovi regolamenti, di ecodesign e di etichettatura energetica, che effettivamente hanno trasformato il mercato, hanno trasformato e cambiato radicalmente l'offerta di tecnologie sul mercato. Oggi non si trovano più tecnologie, o in massima parte non si trovano le tecnologie che fino all'anno scorso erano estremamente diffuse, si trovano nuove tecnologie per produrre riscaldamento, quindi ad esempio caldaie a condensazione, pompe di calore, sistemi integrati, energie rinnovabili. Quindi è stata quella che nel settore viene definita una svolta epocale, mai come negli anni passati. Certo, nella sostanza quindi, Musazza, non troviamo più in commercio le vecchie caldaie, oppure ancora qualche residuo di stock in circolazione c'è, anche se non c'è più la possibilità per i venditori e di conseguenza per gli installatori naturalmente di rendere disponibili queste caldaie appunto per i consumatori? Ma diciamo che qualche residuo, benché minimale, si può ancora trovare, perché i regolamenti facevano riferimento alla definizione di immissione sul mercato. Quindi tutti quei prodotti che sono stati immessi sul mercato prima del 26 settembre 2015, quindi più di un anno fa, possono tranquillamente continuare a essere installati. Ovviamente stiamo parlando di una parte molto piccola limitata del mercato, perché oramai le scorte di magazzino sono state quasi tutte esaurite. Certo. Allora, se io allora avessi bisogno in questo momento di comprare una caldaia, la caldaietta la chiamano, quella per l'abitazione, appunto per la mia abitazione, che cosa devo fare? Quali sono le tre cose più importanti che devo sapere? Diamo subito le istruzioni per l'uso per i nostri ascoltatori. Sì, allora io ci tengo a dire, in effetti la chiamano caldaietta, ma vorrei che questo termine non fosse visto con un'accezione... Lo aboliamo? Va anche bene. L'importante è sapere che sempre più c'è un concentrato di tecnologie all'interno di questa caldaietta, quindi... Non è solamente un tubo che permette di riscaldare l'acqua, esatto, che poi circola nella abitazione, c'è ben altro. C'è della ricerca prima dello sviluppo, e peraltro c'è una produzione nazionale molto importante. Sì, è una gran bella industria. Esatto, questa per Italia e Germania sono le due nazioni più importanti dal punto di vista produttivo. Venendo al consumatore, è importante capire che oggi ha uno strumento in più, che è l'etichetta energetica. Un po' come siamo abituati oramai da tempo per gli elettrodomestici, i frigoriferi, le lavastoviglie. Ma anche per gli alimenti, guardi, siamo ossessionati ormai nell'andare a guardare se c'è l'olio di palma, quante calorie appunto consumiamo mangiando quel tipo di alimento. Quindi in realtà gli italiani si stanno sempre più abituando alla lettura dell'etichetta in ogni settore, quindi in questo campo... Questo è un bene, perché in questo momento abbiamo a disposizione anche un'etichetta per gli apparecchi del riscaldamento. Che siano caldaie o che siano altre tecnologie, c'è un'etichetta che evidenzia in maniera chiara e puntuale la classe energetica del prodotto che ci accingiamo ad acquistare. E quindi in funzione della classe energetica possiamo anche presumere quale sarà il consumo del nostro apparecchio. Certo, parlando, che ne so, di un appartamento, ammettiamo, di 80 metri quadri, di che tipo di tecnologia c'è bisogno appunto per una famiglia tipo, che ne so, di quattro persone? Io vado su Target, naturalmente molto standard. Certo, allora diciamo che quello che va per la maggiore oggi sul mercato sono le caldaie. Prima lei parlava di caldaie a condensazione, che è la tecnologia di ultima generazione, quindi senza entrare troppo nel tecnico, però la condensazione consente di recuperare dei fumi che altresì verrebbero evacuati dal camino, quindi di recuperare si dice, del calore latente da questi fumi, quindi aumentando enormemente l'efficienza. Ecco perché i fumi vanno controllati ogni tot di tempo. Ecco. Esattamente. E poi le caldaie, nella stragrande maggioranza dei casi, fanno non solo riscaldamento, ma fanno anche acqua calda sanitaria. Quindi il dimensionamento dell'apparecchio è in funzione, soprattutto, hai parlato di quattro persone, nel numero di abitanti, perché questi diciamo, influiscono sul consumo di acqua sanitaria. Senta, lo so che questo non è il suo lavoro, ma insomma, gli italiani quanto sono disposti a spendere per dotarsi di un buon apparecchio per la propria abitazione? Non badano a spese oppure cercano il risparmio, magari fanno un po' a cazzotti anche con la qualità dello strumento che ricercano, o comunque si lasciano ben consigliare e su questo non badano a spese? No, io per primo guardo le spese, quindi credo che sia... Se non lo fa lei ci mancherebbe altro. Credo che sia cosa buona e giusta. Certo, c'è ancora poca sensibilità, quindi quello che noi come associazione, tutti gli operatori stiamo facendo, è cercare di far capire all'utente che non bisogna guardare solo la spesa iniziale dell'apparecchio, ma quello che poi è la convenienza nell'arco della vita utile della caldaia. Stiamo parlando di apparecchi che stanno nella nostra casa 10, 12, esatto, 15 anni e che contribuiscono ai consumi energetici per circa l'80% di un'abitazione. Quindi facendo leva sul risparmio su quell'80%, ovviamente nell'arco della vita utile ne ho un beneficio. E non ci dimentichiamo oggi che per l'installazione di queste caldaie, insomma, abbiamo anche la possibilità di fruire di corposi sconti fiscali che ormai sono diventati strutturali nel tempo, anche quelli appunto per il risparmio energetico, con percentuali variabili in questi anni. Adesso lo sconto è particolarmente generoso, ma probabilmente verrà confermato. Addirittura si ipotizzava di ampliarlo ulteriormente, di renderlo ancora più importante, però siamo già su livelli oltremodo soddisfacenti per i consumatori. Era proprio su questo, prima di andare alle regole del controllo fumi e le regole appunto per il controllo di sicurezza della caldaia, le faccio subito sentire la domanda di Giancarlo da Magenta, che proprio su quest'ultimo aspetto aveva dei chiarimenti da chiederci. Buongiorno Giancarlo, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti i suoi ospiti, buongiorno. Senta, in effetti sono due le domande che io vorrei porre ai suoi ospiti. Allora, una è questa: io abito in un appartamento, in una villetta bifamiliare, no, di circa 100 metri quadri il mio appartamento, e siamo due persone. Sto facendo un'indagine, anzi sto chiedendo dei preventivi per l'installazione di una nuova caldaia a condensazione, no, per la prossima stagione. Ci sono preventivi che mi propongono la caldaia istantanea e la caldaia invece con serbatoio di accumulo a parte. Ecco, in questo caso ognuno, devo dire, di questi installatori sta tirando l'acqua al proprio mulino, per cui io in questo caso non saprei proprio che cosa scegliere. Allora, no? lei ha fatto intanto bene che ha scelto cuore e denari, Giancarlo. Poi abbiamo completato la domanda? E poi volevo chiedere un'altra cosa. Un installatore mi ha proposto una caldaia e dice che posso accedere alle agevolazioni fiscali del 50% normalmente. Se invece installo le valvole termostatiche posso accedere al 65% globale. Io ero convinto che fosse il 65% su tutto l'impianto, però vorrei avere una delucidazione in merito. Grazie Giancarlo, che abbiamo la persona giusta. Musazza. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, produzione di acqua calda sanitaria con accumulo o istantanea, direi che in questo momento è difficile senza aver visto poi un progetto complessivo. Quello che posso dire è che se parliamo comunque di una tecnologia a condensazione, ovviamente facciamo la scelta giusta a priori. Per quanto riguarda la seconda domanda, valvole termostatiche sì o no, è quello l'elemento che differenzia lo sconto fiscale. È l'elemento, esatto. La detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, quindi il 65%, si può ottenere nel momento in cui io vado a sostituire il vecchio generatore con ad esempio una caldaia a condensazione e contestualmente installo anche le valvole termostatiche. Ovviamente la percentuale del 65% va in detrazione sul costo complessivo dell'intervento fino a un certo massimale. Se non adotto le valvole termostatiche, c'è la soluzione del 50% e rientro nel campo della ristrutturazione edilizia. Allora, intanto mi prendo una pausa con Musazzi, le ho messo una prima alla fine del suo cognome, per andare all'altro tema che vi avevo anticipato, e intanto faccio così un po' scaldare gli ascoltatori invece sul tema della manutenzione ordinaria della caldaia, quindi quali sono i controlli da fare in maniera molto rigida e stringente prima dell'accensione, quali sono quelli che possiamo rinviare naturalmente, poi soprattutto quali sono gli adempimenti che in questo momento spettano ai condomini d'Italia, laddove naturalmente si usano ancora, e nel nord Italia sono ancora in tante, appunto, il riscaldamento centralizzato. Eccoci a noi, avvocato Correale, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Responsabile dell'ufficio studi della NACI Lombardia, l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio. Parto subito entrando nel vivo della situazione, della questione, avvocato Correale, con la domanda di Ferdinando che su WhatsApp scrive: il mio amministratore non vuole indire l'assemblea straordinaria per l'installazione delle valvole. Che responsabilità ha nel caso non dovesse rispettare i tempi del 31 dicembre? Eccoci qua, avvocato Correale, subito materia legale per lei. Posso dire che mi rifiuto di crederci. Ha visto? Pensi un po'. Sa che pure io quando... Anche perché non è una cosa... esatto, della quale parliamo da ieri o l'altro ieri. Maurizio Melis, con tutte le trasmissioni che ha fatto, non lo sa neanche lui quante volte l'ha detto di questa scadenza. È già da più di un anno e mezzo che ne parliamo almeno anche noi. Allora, avvocato, qua che si fa? Cosa può fare intanto un singolo condomino per sensibilizzare un tantino l'amministratore su questo tema? Mandare all'amministratore una fotocopia della legge, soprattutto dell'articolo che prevede le sanzioni. Sono sanzioni molto pesanti e calcolate per unità immobiliare. E ogni condomino che non sia in regola, che non sarà in regola dal 1 gennaio, corre il rischio di essere passibile di sanzioni. Se la sua violazione dipende dall'omissione da parte dell'amministratore, tutto quanto poi ricade sull'amministratore. Per questo motivo che mi sembrava impossibile. Per la verità, volendo proprio immaginare che tutti possono essere assolti, anche i più grandi peccatori, dirò che c'è un caso nel quale come dire, l'obbligo viene meno, perché la stessa nuova normativa, il decreto dell'agosto 141, prevede che se non è possibile installare la contabilizzazione, e allora voglio dire, di fronte all'impossibile Si ferma. Però in questo caso è l'amministratore che deve dimostrarlo. Certo, e poi deve convocare l'assemblea. Le scelte di questo genere non possono essere dall'amministratore, sono scelte che riguardano il valore del bene, la consistenza della cosa comune. Le scelte devono comunque essere affidate all'assemblea, perché l'amministratore non ha potere al riguardo. Certo. Senta, avvocato Correale, allora questa mattina il Sole 24 Ore scrive questa cosa. Allora, il pezzo di Antonio De Marco: la scadenza del 15 ottobre si avvicina, quel giorno in quasi tutta l'Italia del centro-nord sarà possibile avviare gli impianti di riscaldamento centralizzati. In questo contesto si inserisce però l'obbligo, che è quello che stiamo spiegando questa mattina, termine 31 dicembre, di installare contatori di fornitura, sottocontatori, contabilizzatori a seconda della situazione. Il problema è che le ultime modifiche alla misura legislativa 102 del 2014, che ha introdotto tutto questo pacchetto di novità e che fissava le regole a riguardo, sono state apportate con molto ridosso alla scadenza. Non è che l'amministratore di condominio in questione, come dire, potrebbe teoricamente lamentare proprio questo fatto, non aveva la normativa completa e quindi se l'è presa comoda. Che cosa mancava all'appello? Beh, per la verità non mancava nulla, cioè quello che dice l'ingegner De Marco è sacrosanto, ma occorre considerare che noi avevamo gli stessi termini, lo stesso termine, primo gennaio 2017, fissato da una normativa di 2 anni fa, per cui l'amministratore non può dire: io non avevo fatto nulla prevedendo che ci sarebbero state le modifiche. Avevamo tanto tempo per attivarci e avremmo potuto farlo. In realtà poi le modifiche che ci sono state sono modifiche di un certo rilievo, tutto può essere considerato molto rilevante, ma in realtà il legislatore si è limitato a fare un'operazione di assoluta razionalizzazione della norma. Si era partiti dall'idea che la contabilizzazione fosse una scienza esatta, applicabile e calabile in tutti gli edifici. La nuova normativa si è limitata a dire: spesso è applicabile la legge, le regole che sono applicabili, le regole che avevo date, qualche volta può darsi o che non siano applicabili, è il caso che ho fatto un minuto fa, oppure che vadano applicate con una certa razionalità. per cui non si può dire oibò, mi accorgo il 3 di ottobre che ho una nuova normativa da rispettare. La prima volta che l'abbiamo saputo era il 2005, esatto. Oggi siamo nel 2016. Infatti, quindi minimo l'assemblea che ha deliberato questi lavori da fare all'interno delle unità abitative di un condominio è stata fatta 2 anni fa o almeno l'anno scorso. Diciamo già quest'anno non era più tempo sufficiente per deliberare, o sì? Avvocato Correale. Sì, tutto sommato ce la si fa ancora, anche chi non è ancora partito può farcela, occorre la collaborazione da parte dei condomini, ci sono delle difficoltà di tipo pratico, occorre andare nella casa di ciascuno a modificare le valvoline, cioè quei pomelli che regolano l'afflusso, occorre mettere le pompe, ci sono lavori da fare, sarebbe stato meglio farlo tanti anni fa, tant'è vero che la nuova normativa addirittura dà un vantaggio, dà un privilegio a chi era stato virtuoso e a chi, come era possibile fare, già si è adeguato. Io ho un osservatorio un po' particolare, che è la città di Milano, la Lombardia, sì. E devo dire che qui le cose sono andate abbastanza bene, molti stabili sono già stati adeguati, però per quello che mi risulta, diciamo, tutta la fascia italiana dove il riscaldamento centralizzato la fa da padrona, insomma, è stato sensibilizzato da molto assolutamente tempo. Assolutamente, a dovere. Avvocato, ci fermiamo, lo dico anche a Musazzi. Non mi ci va, sa che io ogni tanto un po' devo prendere evidentemente il nuovo caffè che dicevo questa mattina. Ci fermiamo adesso sui problemi della nostra caldaia, del nostro impianto di riscaldamento. Abbiamo il momento dell'aggiornamento appunto sui mercati finanziari e poi naturalmente tantissime le domande da parte vostra all'800 24 00 24 o al 349 238 6666. Leggo anche in questo caso con curiosità quello che ci racconta un ascoltatore che dice che il suo inquilino si rifiuta di fare la manutenzione e verifica dei fumi della caldaia per l'acqua calda dell'appartamento che ha in affitto. Confermate che è responsabilità degli inquilini, bisogna vedere se la caldaia produce solo acqua calda, se ha gli stessi adempimenti di legge appunto a cui rispondere. A tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Eccoci ritrovati, allora oggi l'universo mondo della caldaia è il tema di Cuore e Denari, il nostro tema naturalmente un grande cavallo di battaglia, un grande classico in questo periodo dell'anno, quest'anno in una doppia sfaccettatura. Allora intanto dobbiamo adesso affrontare le regole per la corretta tenuta dell'impianto di riscaldamento in casa, questa è la fase in cui prima dell'accensione naturalmente chiamiamo un tecnico per fare il controllo fumi e il controllo di sicurezza, sono due controlli diversi che hanno delle scadenze diverse. Su questi punti ci siamo soffermati sempre con molta rigidità negli anni passati, però in realtà sono messaggi che passano con molta fatica, perché poi arrivano l'associazione dei consumatori che dicono ma no, insomma la legge ad andarla a guardare attentamente dice che il controllo va fatto ogni 2 o 4 anni, e qua allora tutta l'industria si mette in moto per spiegare in bene che invece il tema del controllo della sicurezza va fatto annualmente. Quindi cosa succede? Siccome la confusione è tanta, ogni anno dobbiamo rifare un po' di chiarezza. Abbiamo richiamato quest'anno Federico Musazzi, segretario di Assotermica, e poi per tutti gli adempimenti a cui invece sono in questa fase chiamati i condomini d'Italia, soprattutto quelli del nord Italia dove c'è una larga presenza di edifici appunto con riscaldamento centralizzato, con noi questa mattina c'è l'avvocato Eugenio Correale, direttore del Centro Studi della NACI Lombardia. Fatto il riassunto della situazione delle puntate precedenti, 800 24 00 24 il numero verde per le vostre domande. Volevo sentire rapidamente Laura da Roma che aspetta da un po', alla quale io immagino possiamo dare solo dei suggerimenti di buonsenso, Laura, ma vediamo se Musazzi può aiutarci. Laura, buongiorno, appena preso casa? Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per queste trasmissioni che ci aiutano. Grazie. Ci dica. Allora, cerco di essere schematica. Brava, veloce. Schematica per inquadrare la cosa. Acquisto un immobile per la mia famiglia a metà luglio. Sì. Una palazzina di 4 unità, proprietà di 2 ex proprietà di 2 fratelli. Adesso siamo tre diversi proprietari. L'impianto è fermo da 3 anni, mi informano, perché tutti hanno usato pompe di calore, perché ci sono 2 studi medici e una piccola unità abitativa, tranne il mio. Sì. Mi chiedono se io voglio riattivare la vecchia caldaia. Ovviamente sono ben contenta di farmi autonomo. Scelgo e predispongo un impianto a pellet. Sì. 5 giorni fa mi informano che io non sono autorizzata perché... a fare questo impianto, perché praticamente loro non sono d'accordo a dismettere la vecchia caldaia. Loro parlo dei, cioè uno in particolare che ha 2 unità, perché noi siamo 4, io sì, uno di piccolino, allora, e Laura, uno che ha 2 unità. Non vorrei anche dare spazio ad altri ascoltatori, vediamo un po' se subito al volo Musazzi, ma io chiedo anche qua il parere legale, cosa può fare la nostra ascoltatrice Musazzi, spero che abbia, non so adesso se ha massima competenza anche su... Sì, no, poi sentiamo anche il parere del collega. Diciamo che il suggerimento è quello di avvalersi sempre di un professionista, di un tecnico, e quindi consultarsi anche con un tecnico che possa essere di aiuto. Diciamo che la possibilità di staccarsi da un impianto centralizzato, quella è sancita dalla legge. Ovviamente bisogna farsi carico di alcuni costi fissi, ma quello è possibile. Quindi in linea di massima bisognerebbe approfondire ovviamente la problematica, però non c'è una preclusione totale. Certo. Avvocato Correale, ce le suggerisce qualcosa? Il caso della nostra ascoltatrice ci può dare un contributo per aiutarla? Assolutamente sì. Intanto occorre certamente andare a verificare dal punto di vista tecnico. Giuridicamente la questione è molto banale. È consentito il distacco, ma chi si stacca continua a pagare le spese conservative di manutenzione. Ecco. Quando l'impianto viene dismesso, fatalmente degrada, e dal punto di vista giuridico la conseguenza è questo: se il degrado è tale da essere arrivato a 3/4 dell'importanza economica del degrado, sostanzialmente l'impianto si considera perito, quindi non vi è obbligo di ricollegarsi. Se invece lo stato di degrado è inferiore a 3/4, l'assemblea a maggioranza può deliberare la ripresa. Consideriamo che il degrado nel caso degli impianti termici è abbastanza rapido, perché l'impianto che non funziona presenta delle difficoltà che il nostro esperto saprà conoscere meglio di me, ma io le vedo nelle cause e mi accorgo che quando l'impianto rimane fermo un po' di anni poi è difficile riprenderlo, ecco, o comunque costa molto riattivarlo. Quindi Laura, l'avvocato vede le problematiche che possono derivare magari da una situazione simile alla sua nelle cause, quindi io vi suggerirei di mettervi d'accordo appunto per fare così una verifica di tutta la situazione complessiva e quello che potete fare anche individualmente. Allora, Musazzi ci dà il vademecum sui tempi dei controlli della nostra caldaia, del nostro impianto di riscaldamento. Cosa c'è di obbligatorio, cosa c'è di facoltativo? La legge però, ecco, di stringente che cosa indica? Ricordando anche che il vademecum che lei questa mattina mi ha portato appunto come dono, gli ascoltatori possono trovarlo anche su tanti siti, adesso lo diremo. Ci dica. Sì, un vademecum con alcune istruzioni per l'uso molto semplici, che è scaricabile dai siti istituzionali, ad esempio il Ministero dello Sviluppo Economico, o di associazioni di categoria come ad esempio Assotermica, certo, che è quella che io rappresento. E anche sull'Enea, ecco, e perché anche forse sull'Enea l'hanno elaborato loro, è stato elaborato da loro con il nostro supporto. Direi che la legge finalmente è abbastanza chiara. Bisogna distinguere però tra manutenzione ai fini della sicurezza e controlli ai fini dell'efficienza energetica, perché sono due cose, come dicevo, distinte, che presuppongono tempistiche diverse e operazioni diverse. Per quanto riguarda la manutenzione ai fini della sicurezza, come diceva lei, le tempistiche nella stragrande maggioranza dei casi sono annuali, ma soprattutto sono riportate nelle indicazioni che ci dà l'installatore. Nel libretto di impianto. Esatto, nel libretto d'uso e manutenzione, si dice. Quindi quello che ci rilascia l'installatore o in alternativa il fabbricante della caldaia. E qui vengono date le tempistiche, che spesso e volentieri sono periodiche ogni anno. Per quanto riguarda i controlli di efficienza energetica, interviene invece un decreto presidenziale che definisce queste periodicità. le soluzioni più tipiche nelle nostre case di tipo individuale, quindi ad esempio una caldaia a gas di potenza inferiore ai 35 kW, quindi diciamo per le utenze di cui abbiamo parlato fino adesso, i controlli di efficienza energetica devono essere fatti almeno ogni 4 anni. Quindi questa periodicità poi è in funzione della tipologia di apparecchio, della fonte di alimentazione, però sono ben fissate. E la cadenza biennale invece riguardava che tipo di controllo? Adesso lo andiamo a riverificare, dipende probabilmente anche dalla potenza dell'impianto che serve la nostra abitazione o l'edificio, forse anche il combustibile utilizzato, no? Sì, esiste una cadenza biennale per alcune tipologie di apparecchi, ad esempio per generatori alimentati a gas, caldaie di potenza superiore ai 100 kW, quindi utenze centralizzate ad esempio. Allora, ritorniamo adesso al traffico, poi ritorno all'avvocato Correale, perché invece voglio capire, a prescindere dall'adempimento molto importante di quest'anno di aver fatto installare nelle singole abitazioni di ogni condominio appunto i cosiddetti, com'è che li chiamano, i contabilizzatori, ma anche i sottocontatori, perché qua c'è anche tutta la diatriba sul termine corretto da utilizzare. Vorrei anche sapere invece nei condomini come funzionano tutti questi controlli, soprattutto se l'impianto naturalmente serve un intero edificio. Se abbiamo un impianto di riscaldamento centralizzato, immagino che qua le responsabilità sono più ampie e l'amministratore debba far fare dei controlli annuali a prescindere da tutto. A tra poco. Cuore e denari. Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini. Abbiamo fatto lei presidente questa volta. Già. Sì. Allora, dichiara aperta la seduta di notte. Insomma, non chiude mai l'ascensore. Lei è un moroso. Allora, Donato da Milano, le è capitato di essere protagonista di un'assemblea di condominio modalità Fantozzi? No, beh sì, delle volte sì, succede anche a noi comunque. Non ci sono botte, ma siamo, andiamo vicino qua. Allora, ci dica un po', impianto di riscaldamento centralizzato, avete installato i contabilizzatori, i sottocontatori, anzi si chiamano anche così? No, perché vengono a costare troppo e mi ha detto, cioè, sì, beh certo, siamo qua un palazzo, un condominio con quattro palazzi, e allora hanno detto che, insomma, l'interessato, che se il costo supera, cioè non si ammortizza in 4, 5 anni, 8 anni, adesso non ricordo bene gli anni, c'è un tecnico che certifica il tutto e si può non fare l'impianto. Ah, Donato, aspetti un po', che questa non la sapevo. Avvocato Correale, allora, non so, ma gliel'ha detto Donato l'amministratore di condominio? No, no, c'è un interessato, uno che lavora sempre per lo Stato, per la... che ci ha dato informazioni su questo, vabbè, e hanno confermato, c'è un ingegnere che sta facendo tutto. Grazie. Però vogliono l'ultima valutazione di 4 anni di gas che abbiamo speso per vedere il loro risparmio. Donato, grazie. Avvocato Correale, anche a lei risulta che se la spesa che viene effettuata per questo adempimento di legge non si ammortizza poi in un tot di anni con un minor consumo, naturalmente un risparmio di questo tipo, allora si può sentire esonerati dal fare questo lavoro? Assolutamente no, noi abbiamo la buona abitudine di pensare che le leggi siano volontarie e che si possa tranquillamente immaginare che le si interpreta. È vero che, ma l'abbiamo detto poco fa, quando la applicazione della normativa non è possibile, allora si è sentati da lì. Però allora probabilmente questo tecnico che hanno sentito, questi signori di questo condominio di Milano, lo hanno fatto proprio, probabilmente questo è una delle situazioni da esonerare? Ma mi pare che siano semplicemente nella fase della disamina, cioè stanno andando a verificare. Io mi permetto di dire che sono situazioni del tutto eccezionali, legate a metodologie particolarissime dell'impianto di riscaldamento, soprattutto quando l'impianto era frammisto di vari tipi di forme di erogazione del calore, per cui diventa difficile andare a misurare. Certo. Le faccio un esempio giusto per intenderci: un conto è il termosifone, altro conto è quegli apparecchi che servono per buttare aria a casa, e in quelle situazioni può esserci un problema. Comunque inviterei a grande cautela, poiché dopo molti anni, finalmente l'obbligo sarà generalizzato. Chiarissimo. Noi abbiamo un catasto degli impianti, probabilmente ci saranno anche verifiche. Ah, ecco, dove risiede questo signor catasto degli impianti? Sul web, web, estremamente, estremamente moderno. Sì, no, non è pubblico, comunque estremamente moderno, perché tutti i manutentori hanno l'obbligo di registrare l'esistenza dell'impianto e di fornire delle comunicazioni. Finora non posso dire che vi risultino delle verifiche, dei controlli particolarmente severi. Il resto siamo stati per anni in un regime di proroga, però è evidente che non possiamo immaginare in via definitiva che dal 1 gennaio del 2017 pioveranno sanzioni a destra e manca. Ma neppure che chi vuole si adegua e chi non vuole non si adegua. Ecco. È probabile che ci sarà un primo periodo in cui i controlli saranno, come dire, meno severi e che poi mano a mano il cerchio si spingerà, come del resto. Senta, ma come nel caso di Donato, se non ci si fida tanto della perizia che è stata fatta, perché in questo caso appunto lei la giudicava discutibile, che cosa può fare Donato? Breaking news. A Stoccolma è stato assegnato il premio Nobel per la fisica 2016 in questi istanti. Il riconoscimento è andato a tre scienziati: David J. Thouless, Duncan Alden e Michael Kosterlitz. Approfondimenti nei prossimi giornali radio. Chissà che studi hanno fatto, magari proprio sugli impianti di riscaldamento, sulle caldaie, sulla normativa italiana e non solo, anche se in realtà poi quella italiana, come per tanti settori, va ad armonizzarsi appunto a quella europea. Allora, parlavamo di situazioni problematiche e di chi non vuole ottemperare la legge di installare appunto i famosi appunto sottocontatori, li abbiamo chiamati così, nei propri appartamenti, perché magari qualche volta c'è una situazione problematica o non si delibera in assemblea, si litiga in assemblea, non si vogliono sostenere le spese, ma poi c'è Lidia da Conigliano che ci racconta che in realtà non hanno proprio l'amministratore di condominio. Lidia, buongiorno. Buongiorno, io appunto volevo porre questo quesito: essendo un condominio di 4 appartamenti non gode di amministratore. Ah, certo. Chi ha il dovere di interessarsi delle elettrovalvole? Certo, in genere viene delegata una persona. Quesito numero 1. Secondo quesito, eventualmente in caso di sanzioni chi deve pagare? Il proprietario è un'unica persona. Ma voi Lidia avete un impianto centralizzato con 4 appartamenti? No, ognuno ha il suo impianto. Ah, ecco. Di riscaldamento. Allora io sto parlando di edifici, Lidia, in cui c'è un impianto di riscaldamento centralizzato che serve tutto l'edificio. Non stiamo parlando di appartamenti che hanno impianti di riscaldamento autonomo. Mi sembrava di essere stata molto chiara. Avvocato Correale, allora Lidia ci si è spaventata. Il caso dell'ascoltatrice non interferisce in quello che noi diciamo. La contabilizzazione vuol dire andare a misurare unità per unità i consumi, per cui se manca il presupposto dell'impianto unico non c'è manco motivo per infatti. E quindi no, questo lo dico anche a tutti gli altri ascoltatori che ci stanno scrivendo: io abito in un appartamento con impianto di riscaldamento autonomo, cosa devo fare per fare questo lavoro per cui c'è questo obbligo il 31 dicembre? Niente, parliamo di edifici molto grandi dove c'è l'impianto di riscaldamento centralizzato. Mi rendo conto che in tante zone d'Italia questo concetto, avvocato Correale, sia quanto di più lontano. Anch'io che sono marchigiana l'ho appreso Italia venendo a Milano, Non rinunciamo alla nostra italianità. Infatti. Ma le dirò che basta semplicemente trasferirsi dalla Lombardia in alcune zone della Liguria per accorgersi che l'impianto centralizzato non è dappertutto ugualmente necessario. Allora c'è un ascoltatore che chiede: considerando i costi da sopportare, non conviene trasformare l'impianto centralizzato in impianti individuali? Altro bel dibattito, ma quali sono questi costi da sopportare, insomma, ammettendo di avere una situazione non particolarmente problematica e non dover demolire delle mura, avvocato Correale? Insomma, di che tipo di spesa deve incaricarsi un condominio per fare questo lavoro? Francamente non sono interventi terribili, non sono interventi particolarmente pesanti. La normativa sulla contabilizzazione va in generale vista con grande favore, un progresso tecnico notevolissimo. Soprattutto la normativa si appoggia alla nuova tecnologia. E poco fa l'esperto in materia di sicurezza spiegava che per ogni caldaietta occorre fare dei controlli, che i controlli riguardano i fumi, riguardano l'impianto. Immaginiamo che nell'impianto centralizzato tutti questi controlli sono a loro volta centralizzati, per cui si abbattono i costi. la parte ottima di tutto il sistema è dato dalla modularità dei nuovi impianti. Per cui cos'è che accade? Che mentre una volta tu avevi una centrale termica enorme che funzionava allo stesso modo estate, inverno, notte e giorno, oggi grazie ai nuovi impianti si attivano dei moduli in numero crescente a seconda del fabbisogno. Quindi è tutto estremamente più ragionevole e francamente chi ha iniziato essendo fautore del distacco oggi ha qualche perplessità, perché immagina che probabilmente un impianto centralizzato, ben progettato, ben mantenuto, ben gestito è una soluzione altamente preferibile. E poi vuole mettere quel calduccio che si trova già la sera a casa quando si arriva in pieno inverno invece di dover accendere. Senta, volevo solo l'ultima cosa dirla a Federico Musazzi, perché c'è un ascoltatore, ma questo noi ce lo siamo detti anche a microfoni spenti, che dice: è un tecnico, puntualizzo che in Regione Lombardia la cadenza del controllo di efficienza energetica è di 2 anni, non di 4 come da voi detto in trasmissione. Abbiamo fatto un po' prima tutte anche le eccezioni alla regola, e poi c'è naturalmente l'aspetto delle leggi regionali che in certi casi sono più restrittive rispetto a quelle nazionali ed europee. Certo. Non abbiamo tempo, ma ci torneremo. Grazie a tutti, a domani.